2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci qui, ci siamo anche questa settimana alla puntata del 5 e 6 aprile 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, potete raggiungerci anche attraverso la nostra pagina Facebook o anche attraverso Twitter, cercate 2024 oppure Enrico Pagliarini. Abbiamo molte notizie in questa puntata, parleremo di stampa 3D nel nostro approfondimento principale, ma iniziamo parlando di roaming. Quando andiamo all'estero dobbiamo pagare una quota di una telefonata che riceviamo, e anche facendo una telefonata spendiamo di più. Questo potrebbe non essere più vero tra qualche mese, qualche anno, vedremo. Il Parlamento europeo questa settimana ha approvato un pacchetto di misure che riguardano la fine del roaming, ma su questa fine vanno fatte alcune puntualizzazioni. E poi anche un altro tema che sembra molto noioso, ma in realtà poi riguarda la navigazione su internet che facciamo tutti i giorni, o comunque le conseguenze che la neutralità della rete, o meglio la mancata neutralità della rete internet, potrebbe avere sulla nostra vita digitale di tutti i giorni. Per capirci qualche cosa in più ne parliamo con Innocenzo Genna, che saluto. Genna è esperto di regolamentazione europea delle telecomunicazioni, bentornata 2024. Buongiorno. Partiamo dal roaming. In estrema sintesi, qual è la novità? Si dice che entro quest'anno il roaming scomparirà, ma in realtà poi come stanno le cose? Beh, innanzitutto le cose sono un po' più complesse, perché stiamo parlando ancora di una proposta di regolamento europeo che ancora non è stato approvato, quindi dovremo prima aspettare l'approvazione definitiva, che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, salvo intoppi. E questa è un'approvazione che dovrebbe arrivare dal Consiglio europeo, giusto? Sì, e dove l'Italia svolgerà un ruolo importante, perché l'Italia sarà presidente della UE nel secondo semestre del 2014. Ad ogni modo, se effettivamente questo regolamento verrà definitivamente approvato, come pensiamo, vi saranno queste importanti novità in materia di roaming internazionale. Innanzitutto, già da luglio non dovremo più pagare le chiamate entranti del nostro telefonino. Noi sappiamo che quando andiamo all'estero, al momento, e riceviamo una telefonata sul nostro telefonino, paghiamo alcuni eurocent, e questa cosa crea anche molta irritazione, perché non stiamo veramente facendo noi la chiamata, la stiamo ricevendo, e infatti la stessa quota non viene applicata in Italia quando noi riceviamo una telefonata. Però nel roaming internazionale c'è questa sovrattassa per ricevere telefonate, e questa scomparirà già da luglio. Seconda novità importante è proprio non dovremo più pagare nessuna sovrattassa neanche quando faremo telefonate quando siamo all'estero, che vuol dire che si continuerà a applicare la tariffa domestica, la stessa tariffa che il nostro operatore mobile ci ha applicato per i servizi domestici. Questo vale anche per i dati, quindi la navigazione su internet? Sì, questo vale per le chiamate voce, per gli SMS e per i dati. A questo punto però uno potrebbe dire pare troppo bello per essere vero. In realtà la cosa è un po' più complicata, sempre premettendo che dovrà essere approvata o eventualmente modificata dal Consiglio dei Ministri e dei Capi di Stato europei. Comunque, diciamo, in realtà c'è una complicazione in più. Sì, c'è qualche complicazione. La prima è che sul primo aspetto, quello di non pagare più il costo delle telefonate entranti, il regolamento vorrebbe già far partire questa novità già da luglio, ma noi sappiamo che a luglio il regolamento non sarà ancora approvato, sarà al limite approvato a dicembre, quindi non sappiamo se ci sarà una norma retroattiva, però per il momento a luglio continueremo a pagare. Secondo, per le telefonate normali, quelle che invece noi facciamo all'estero, per le quali a un certo punto si applicherà, diciamo, l'equiparazione tariffa domestica-tariffa estera, In quel caso però gli operatori mobili si potranno riservare la possibilità di continuare ad applicare una sovrattassa roaming qualora l'utente consumi una quantità di traffico fuori dell'ordinario. Il ragionamento è questo: se uno va all'estero non ci va per un mese, altrimenti si farebbe una SIM all'estero, ma ci va per qualche giorno e quindi questa novità si applicherà solamente al traffico che ragionevolmente viene utilizzato durante un periodo di viaggio all'estero. Sarà l'operatore mobile che deciderà quanto sarà questo traffico, ma ovviamente ci saranno delle guidelines europee per evitare che ci siano abusi. Si tratta comunque di una facoltà, nel senso che l'operatore mobile potrebbe rinunciare e dire che la scomparsa del roaming varrà per non importa quale tipo di traffico, insomma, quindi potrebbe anche essere limitato. Questa facoltà è stata introdotta per quale motivo? Perché secondo me alcuni operatori mobili avevano paura del cosiddetto permanent roaming, cioè del roaming permanente, cioè che alla fine con la equiparazione totale di tariffe roaming e domestiche, un qualsiasi operatore europeo, anche finlandese o lituano, potrebbe cominciare a vendere SIM in altri paesi, SIM, card SIM, e quindi diventare un operatore paneuropeo, che peraltro non sarebbe male per i consumatori, però evidentemente si tratta di uno scenario ancora troppo avveniristico per l'Europa e quindi si è voluto dare così, calmierare un po' la situazione. Sì, probabilmente molti operatori pensano e temono anche che laddove ci sia un costo della vita meno caro e quindi il costo della telefonia mobile di conseguenza sia meno caro, gli operatori di quei paesi potrebbero far concorrenza, tra molte virgolette, sleale nei paesi dove il costo della vita è più elevato. Quindi magari io che sto in Germania compro una SIM di un operatore greco dove la telefonia magari costa meno e mi avvantaggio di quello. Quindi per evitare questo fondamentalmente. Sì, però e qui forse arriviamo al terzo punto. In verità c'è un problema, cioè che l'operatore greco, come tu dici nel tuo esempio, in verità per poter servire dei clienti in Germania dovrà acquistare l'accesso a una rete mobile tedesca, perché l'operatore greco non ha una rete in Germania e questo costo di accesso potrebbe essere particolarmente elevato. Questo è l'aspetto che ancora crea grossi dubbi a livello europeo, perché poiché i costi di accesso alle reti mobili possono essere molto alti, potrebbe essere impossibile per molti operatori europei di fatto fornire questa tariffa unificata domestica roaming, perché quando i loro clienti saranno all'estero, l'operatore non sarebbe in grado di pagare l'accesso alla rete estera, perché la tariffa che applica al suo utente potrebbe essere più bassa del costo dell'accesso alla rete, che vuol dire che per fornire questo servizio dovrebbero andare in perdita. Allora, il rischio è che molti operatori, soprattutto i più piccoli, gli operatori virtuali, non siano in grado di offrire questo servizio, quindi con un grave disservizio per i loro clienti, che avrebbero una SIM che vale solo per il loro paese, o addirittura certi operatori uscirebbero dal mercato, che sarebbe anche questo male perché ci sarebbe meno concorrenza, il mercato si concentrerebbe attorno agli operatori più grandi, che sarebbero in grado a quel punto di aumentare le tariffe domestiche. Quindi il paradosso sarebbe che magari non pagheremo più il roaming, ma avremo delle bollette domestiche più elevate che andrebbero a compensare il vantaggio della scomparsa del roaming. Molto chiaro, molto chiaro. Vedremo che cosa succederà e se il Consiglio europeo sarà più dalla parte dei consumatori o più dalla parte degli operatori. Questa è una domanda che lasciamo aperta e la risposta arriverà nei prossimi mesi. Neutralità della rete, che cosa ha approvato sostanzialmente il Parlamento europeo e anche in questo caso poi dovrà essere soggetta la materia al giudizio del Consiglio europeo che potrà proporre anche modifiche. Ricordiamo che per neutralità della rete intendiamo quella, diciamo che chiamiamola tradizione, perché per il momento non c'è nessuna norma per la quale su internet gli operatori non devono e non discriminano il traffico e quindi qualsiasi dato e qualsiasi genere di contenuto transita in modo neutrale. Che cosa è stato stabilito dal Parlamento europeo? Beh, il Parlamento europeo ha posto dei limiti, ha la possibilità degli operatori di rete, cioè quelli che forniscono l'accesso internet, ad esempio Alice, Wind, Vodafone, Tele2, ha limitato la possibilità per questi operatori appunto di discriminare o limitare l'accesso ai vari servizi internet per i propri utenti. Cosa vuol dire? Che quando io come utente mi collego a internet grazie ad esempio all'accesso che mi dà Telecom Italia, dopodiché decido di utilizzare i servizi che voglio, che possono essere Google, Facebook, commercio elettronico, Spotify, video, eccetera. Telecom Italia non può in alcun modo mettere in atto alcuna misura restrittiva per influenzare le mie decisioni, quindi non può bloccare il mio accesso a certi siti, non può disturbare il traffico di alcuni servizi che sto utilizzando, non può neanche impormi diciamo delle somme aggiuntive per il fatto che io voglio utilizzare un certo servizio invece di un altro. Come dicevi tu, questa è una prassi, è un po' una tradizione nell'ambiente internet, però sappiamo che molti operatori avevano deciso in via prospettica di cambiare prassi e di cominciare appunto a mettere in atto delle misure che avrebbero in qualche modo limitato la libertà degli utenti. Il Parlamento è intervenuto appunto ponendo dei limiti a questa capacità degli operatori di rete. Quindi questa è una decisione che è decisamente a favore dei consumatori europei. Sì, i consumatori sono molto, sicuramente sono molto contenti. Va detto onestamente che si tratta comunque di un settore abbastanza complesso, per cui gli operatori di rete comunque invocano dal loro punto di vista la possibilità di fare tutta una serie di attività che sono necessarie per il buon funzionamento della rete, ad esempio per evitare congestioni, ma anche per sviluppare nuovi servizi e anche per trovare nuove fonti di reddito per i loro investimenti. Quindi gli operatori sono molto contrari a queste normative e ovviamente per capire se hanno ragione o torto o un po' ragione o un po' torto bisognerebbe andare molto nel dettaglio. Bene, grazie ad Innocenzo Genna per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci. E insomma, capite anche voi che la materia è sicuramente complessa, ma poi il risultato di una mancata regolamentazione o comunque un mancato controllo in questo tema potrebbe essere che magari il nostro operatore fa un accordo con un particolare produttore di contenuti audio-video e magari quei contenuti noi li ascoltiamo, li vediamo bene e se con un altro produttore non ci fosse un accordo potremmo avere dei problemi. Invece la rete deve essere un po' come l'autostrada, tutti devono transitare rispettando certo il codice della strada, rispettando le regole di base, ma non c'è nessun tipo, non è che la società che gestisce l'autostrada fa un accordo con solo una società di distribuzione che trasporta magari con camion gialli piuttosto che rossi o blu. Bene, questo è il 2024, ci fermiamo per pochi secondi e poi riprendiamo anche con le nostre digital news e parleremo poi anche di stampa 3D. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024 e la riprendiamo con le nostre digital news. Digital news. A partire dall'8 aprile, quindi fra pochi giorni, Microsoft terminerà il supporto a Windows XP, quindi non verranno più rilasciati aggiornamenti di sicurezza o comunque in generale qualsiasi tipo di aggiornamento. Gli ultimi aggiornamenti verranno pubblicati online proprio martedì alle ore 19, ora americana del Pacifico, quindi la notte italiana. La stessa cosa vale per Office 2003. Allora, naturalmente nell'immediato non succederà nulla, tutti potranno continuare a utilizzare i propri computer con Windows XP senza problemi, ma certamente più passeranno le settimane, più saranno a rischio tutti questi computer con questo sistema operativo, che sarebbe meglio aggiornare ai più recenti sistemi operativi di Microsoft o uno potrebbe anche decidere di cambiare sistema operativo. Però sicuramente a proposito di sicurezza, perché poi ci sono anche tutta una serie di problemi, cioè nuovi software che non potranno essere installati su Windows XP, ma uno dei problemi maggiori è quello della sicurezza, anche per tutti i sistemi, come ad esempio ci sono ancora dei sistemi Bancomat che hanno Windows XP. Allora, per tutti questi problemi di sicurezza dedicheremo presto un approfondimento. Digital News. Sempre dall'8 aprile Microsoft pubblicherà un importante aggiornamento di Windows 8, l'8.1 Update, le cui novità sono pensate soprattutto per chi non ha un PC touchscreen. Windows 8 era stato lanciato con i computer touchscreen in testa, ma ci sono ancora tantissimi PC che non sono touchscreen e ci sono molte persone che preferiscono ancora utilizzare mouse e tastiera. Quindi è un positivo atteggiamento quello di Microsoft, anche se arriva con un po' di ritardo, meglio tardi che mai. Altra cosa positiva è l'arrivo, il ritorno di un vero e proprio menu Start. Digital News. Una notizia che riguarda Facebook: ha reso disponibile anche in Italia il servizio di chiamate VoIP integrato nell'app Messenger per smartphone sia iOS che Android. Con Facebook Messenger è quindi possibile telefonare gratis ad altri utenti che sono in chat. Questa è una funzione che ormai è presente su quasi tutti i sistemi di messaggistica in tempo reale, quindi non è una grandissima novità per il mercato. Lo è sicuramente per i milioni, più di 20 milioni di persone che in Italia usano Facebook. Certo, non tutti la usano in mobilità, ma sicuramente più della metà la usano anche in mobilità su iOS e Android. Digital News. Novità in arrivo per Samsung: mentre dall'11 di aprile sarà disponibile il nuovo smartphone Galaxy S5, abbastanza simile in realtà all'attuale 4, quindi anche in questo caso non ci sono novità eclatanti, dal giorno dopo, cioè il 12 di aprile, cominceranno ad essere commercializzati nuovi televisori a schermo curvo LCD. Quella dello schermo curvo è, potremmo definirla, una moda lanciata soprattutto dal marketing, che cerca di vendere come bello un problema produttivo nato con i televisori OLED, la cui difettosità, ne abbiamo parlato più volte, 2024, è più bassa se si curva un po' con lo schermo, quindi è stata una soluzione ad un problema tecnico. A quel punto gli uomini di marketing hanno detto: beh, diciamo che curvo è più bello e facciamo curvi anche gli LCD LED. Digital News. Google ha pagato una multa da €1 milione imposta dal garante della privacy italiano per alcune violazioni sull'uso delle auto che raccolgono le foto per realizzare Street View, una serie di violazioni che risalgono al 2010. Google non avrebbe fatto nulla, secondo il garante, per rendere riconoscibili le auto in modo che un passante potesse, ad esempio, nascondersi dalle fotocamere, che uno potrebbe non voler essere ripreso dalle fotocamere. Allora, il garante aveva prescritto a Google di rendere le auto facilmente individuabili e di pubblicare sul proprio sito web 3 giorni prima dell'inizio delle riprese le località visitate dalle vetture di Street View. Analogo avviso deve essere pubblicato da Google sulle pagine di cronaca locale di almeno 2 quotidiani e diffuso per mezzo di un'emittente radiofonica locale per ogni regione visitata. Ora Google si è adeguato a quelle prescrizioni, insomma, da molto tempo, ma non l'aveva fatto nel 2010 e quindi per questo è nata questa multa. Allora, ho fatto un calcolo e 1 milione di multe è come dare a chi guadagna €1.500 al mese una multa da €2, quindi al di là dell'opportunità della multa, sicuramente era una multa opportuna, però forse bisognerebbe fare un'analisi anche su quanto uno dovrebbe pagare. Certo, questo rapporto è stato fatto sugli utili mondiali di Google, ma questo è comunque il calcolo. Digital News. Ultima notizia riguarda una norma che entrerà in vigore negli Stati Uniti a maggio 2018, ma sicuramente interessante. Tutte le automobili messe sul mercato dovranno avere una videocamera posteriore con display sul cruscotto per vedere che cosa c'è dietro al veicolo, una misura che riguarda la sicurezza, che potrebbe poi essere introdotta anche in altri paesi. È sicuramente una novità interessante. A proposito di TV curve, vi consigliamo di andare a riascoltare la nostra puntata che abbiamo in parte dedicato alle TV curve all'inizio dell'anno, quando ci siamo occupati del Consumer Electronic Show, la sono stati presentati alcuni nuovi modelli, erano già stati presentati lo scorso anno, ma diciamo che l'estensione del concetto di curvo anche al mondo LCD, alle TV normali, chiamiamolo così, e non ai televisori normali e non solo agli OLED, è stato lanciato al Consumer Electronics Show di Las Vegas 2014. Naturalmente parliamo di TV che si vedono bene, diciamo che ci sono, secondo il nostro parere, delle scomodità, cioè si vedono molto bene se sei al centro del fuoco della curvatura, se sei di lato naturalmente magari qualche problema ci può essere. Dunque, adesso parliamo di TV online, di servizi di streaming video su abbonamento, la novità di questi mesi. Dopo Infinity di Mediaset è stato lanciato in settimana anche Sky Online, una offerta alternativa a quella satellitare di Sky, dedicata, così dice Sky, ai nativi digitali o comunque a chi usa molti contenuti online. Riccardo Balestiero è il responsabile del progetto in Sky Italia. Allora, l'offerta non è diversissima da quella classica di Sky, perché i principali elementi differenzianti sono l'immediatezza, nel senso che non hai bisogno di una parabola, di un decoder, perché accedi all'offerta da qualunque connessione internet, e poi l'altra differenza fondamentale è quella legata al claim della nostra campagna, quindi subito e senza vincoli. Significa che si può accedere ai contenuti pagando o mese per mese oppure evento per evento senza vincoli di contratto. Poi l'offerta si sviluppa su tre pilastri fondamentali: un ticket prepagato cinema, quindi per un mese si ha l'accesso illimitato a tutti i canali televisivi di Sky, e una videoteca con le ultime imperdibili novità del cinema di Sky a consumo illimitato, senza pubblicità, e anche il Digua originale. Il secondo pilastro è quello delle serie TV, anche qui un pacchetto prepagato mensile a 10 euro al mese, si entra e si esce quando si vuole, si accede ai tre canali Fox, che sono i nostri tre canali principali per la serie TV. Dal 9 aprile ci sarà la grande novità di Sky Atlantic, e anche qui, oltre ai canali lineari, sarà a disposizione una videoteca di titoli on demand con le ultime serie americane, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Il terzo pilastro è quello dello sport, che non può mai mancare quando si parla di Sky, e qui l'offerta è un pochettino diversa, nel senso che si compra il singolo evento partita per partita, in particolare la Champions League, l'Europa League, i mondiali di calcio FIFA 2014, oppure eventi come i Gran Premi di Formula 1, la MotoGP, il tennis, il golf. E anche qui si consulta il catalogo, si sceglie l'evento che più si preferisce e lo si compra con un semplice click. E queste sono in sintesi le novità. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 10 euro per il pacchetto su abbonamento mensili, quindi 10 euro mensili per le serie televisive che possono essere viste online, anche tutte assieme, quindi non bisogna aspettare la settimana dopo per vedere la seconda puntata. Poi 20 euro al mese per il cinema e gli eventi sportivi, che possono essere acquistati, come avete sentito, per singolo evento, con prezzi che vanno da 8 a 12 euro. Allora, naturalmente per un broadcaster come Sky, così come per Mediaset, l'attenzione va posta su questa offerta online, che non deve cannibalizzare l'offerta classica di Sky via satellite, di Mediaset via digitale terrestre, quindi ci devono essere necessariamente delle differenze. Ad esempio, per quanto riguarda Sky, uno dei punti che saltano subito all'occhio è la mancanza dell'HD, dell'alta definizione, a favore della SD, standard definition, definizione standard. C'è una ragione commerciale: non cannibalizzare l'offerta classica di Sky. Sky punta molto sull'alta definizione, ma c'è anche una ragione tecnica. Sentiamo sempre Balestiero. Ma guarda Enrico, la scelta è dettata un po' da analisi di mercato che abbiamo fatto, e come sai in Italia la banda larga ha ancora tanta strada da percorrere, nel senso che di 24 milioni di famiglie in Italia solo 12 milioni hanno una connessione internet attiva e di questi circa 9 milioni hanno una velocità di internet superiore ai 2 megabit al secondo, che è la velocità compatibile con dei servizi video. Se poi vai a guardare negli orari di picco, anche laddove ci sono velocità di internet commercializzate come alta velocità, dalle nostre analisi risulta che circa 30-40% degli italiani in quegli orari di punta avrebbero problemi a seguire dei contenuti in HD. Quindi abbiamo puntato ad evitare gli orribili squadrettamenti laddove ci sono dei cali di banda. E poi quello che ti direi è vai a vedere la qualità in SD e sfido chiunque a dire che la qualità dell'immagine non è all'altezza di Sky. Prima di parlare di stampa 3D, un ultimo approfondimento riguarda le novità relative a Windows Phone 8.1. È stato annunciato in settimana, arriverà presto. Il primo modo per mettere le mani, diciamo, su questo nuovo sistema operativo per terminali mobili è con i nuovi Lumia. Il primo sarà il 630, che arriverà da maggio. Nokia ha presentato in settimana tre nuovi terminali, 630 635. La differenza sostanzialmente è che uno ha il modulo 4G, l'altro non ce l'ha. Prezzo interessante, perché partiamo da 150 euro sul mercato italiano, in arrivo appunto fra poche settimane. E poi Nokia ha presentato il 930, un nuovo modello della serie Lumia top di gamma, molto bello, molto elegante, e devo dire che sicuramente Microsoft con Windows Phone 8.1 si è adeguata per la maggior parte delle caratteristiche ai migliori sistemi operativi. E molti dicono, e io sono d'accordo con quelli che dicono, miglior sistema operativo ancora iOS, e poi alla seconda posizione sale Windows Phone, che sicuramente ha fatto passi in avanti molto forti con la versione 8.1, che sarà disponibile per tutti a partire da giugno. Quindi potranno essere aggiornati anche gli altri vecchi telefoni. Abbiamo parlato con Rosario Casillo, che è il responsabile tecnico per una buona fetta d'Europa per Nokia. Questa versione sui nostri prodotti, abbiamo lanciato il 630 e sarà il primo prodotto presente sul mercato con la versione Windows Phone 8.1. Questo prodotto sarà disponibile per gli utenti italiani a partire da maggio, quindi da maggio incominceremo a vedere sul mercato i primi prodotti che utilizzano questo sistema operativo. Quindi il nuovo sistema operativo sarà disponibile attraverso nuovi prodotti, ma anche attraverso un aggiornamento degli attuali Windows Phone numero 8, giusto? Esattamente, questa è una grossa novità e sicuramente renderà felici i nostri consumatori che hanno da poco acquistato un prodotto Lumia e che sicuramente vorranno utilizzare le nuove funzionalità del sistema operativo. Quindi a partire da giugno di quest'anno tutti gli utenti che hanno al momento un Windows Phone 8 avranno la possibilità di aggiornarlo over the air con l'aggiornamento Lumia Cyan di Nokia, che porta appunto le nuove funzionalità del sistema operativo Windows Phone 8.1. Adesso ci fermiamo per alcuni minuti, per noi c'è una breve pausa. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024. Ed eccoci di nuovo in onda, io sono Enrico Paglierini, questo è 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso parliamo di uno dei mega trend di cui si parla moltissimo, ovvero di stampa 3D. Vi presento Maurizio Costa Beber, che è il direttore generale di DVS, un'azienda italiana che si occupa di stampa 3D, anche se il termine non è tecnicamente correttissimo, bisognerebbe parlare di additive manufacturing. Oggi con una serie di tecnologie si possono produrre e stampare, si può utilizzare proprio questo termine, pezzi tridimensionali, spesso con materiale plastico, ma ci sono tantissimi altri materiali che vengono utilizzati. Maurizio, benvenuto a 2024. Buongiorno a tutti. Noi ci siamo incontrati al Consumer Electronics Show di Las Vegas e qui già questo incontro ci dice alcune cose, perché voi vi occupate di stampa 3D, poi tu mi spiegherai che stampa 3D non è un termine correttissimo, da tantissimo tempo, da tantissimi anni, soprattutto in ambito industriale, ma noi ci siamo incontrati ad un appuntamento in cui ci si occupava di elettronica di consumo. Allora poi spiegheremo come questo mondo, che da anni si conosce nel mondo industriale, incontra il mercato dei consumatori. In effetti, parlando con gli esperti del settore, molti sorridono vedendo questa euforia che c'è attorno alla stampa 3D, perché la stampa 3D è conosciuta da tanto tempo. Voi, diciamo, la squadra di DWS, che poi ha avuto esperienze varie in altre aziende, da quanto tempo lavora a questa tecnologia? Allora, una buona parte dei nostri colleghi hanno già ormai un ventennio di esperienza nel mondo dell'additive manufacturing. In italiano la produzione additiva sarebbe forse, dal punto di vista formale, il termine più adatto per descrivere tutte queste tecnologie di cui noi facciamo parte per una piccola branchia. Che si usano da tantissimi anni. Che si usano da tantissimi anni. Sono tecnologie nate a metà degli anni 80. Di fatto noi abbiamo iniziato nei primi anni 90. Inizialmente abbiamo assistito alcune aziende giapponesi a entrare nei mercati europei e medio orientali, quindi abbiamo svolto un ruolo di distribuzione prettamente, assistendo sia per la parte di commercializzazione ma anche per la parte di integrazione di sistemi. Quindi, e poi avete cominciato invece a produrre. Esatto, abbiamo alla fine degli anni 90 abbiamo acquisito una piccola azienda giapponese, abbiamo anche messo in piedi un trasferimento di know-how e abbiamo iniziato questo progetto produrre una macchina stereolitografica, che è una appunto delle tecnologie. Poi spieghiamo quali sono le varie tecnologie usate. A disposizione con il 2003 che dà, diciamo, l'inizio ufficiale alla commercializzazione di questo prodotto completamente made in Italy. Quindi parliamo di, insomma, una tecnologia che viene utilizzata nelle aziende, nel mondo industriale, da, insomma, un paio di decenni almeno. Esatto, sì. Allora, già tu ci hai detto alcune cose. Additive manufacturing, quindi produzione additiva, cioè stiamo parlando di un processo che produce un pezzo di metallo, legno, vari materiali, tantissimi materiali, aggiungendo materiale. Quindi si arriva un po' come quando siamo in spiaggia, utilizziamo la sabbia per fare il castello, aggiungiamo sabbia, un po' un granello sopra l'altro, e facciamo un questo, insomma, è una tecnologia che si usa in altri settori, che ne so, in edilizia si fa additive manufacturing, ma in molti ambiti industriali non è così, si stampano cose, si usano delle macchine che tagliano il metallo, eccetera eccetera. Cerchiamo di capire qualcosa di questa tecnologia che oggi sta cominciando, poi spieghiamo anche perché sta diventando sempre più popolare questo termine, che tu dicevi, sbagliando, noi utilizziamo il nome 3D, stampa 3D, però insomma, tanto per farci capire, stiamo parlando di che tipo di tecnologie, partendo da quella più vicino a voi e arrivando fino a quella più popolare. Allora, in ordine cronologico, la prima tecnologia che ha visto la luce è stata la stereolitografia, che è poi la tecnologia che in parte utilizziamo noi, con alcune poi varianti, alcuni miglioramenti, che consiste su un materiale liquido o pastoso che viene solidificato ad alta velocità da un raggio laser. È una tecnica molto, molto sofisticata ed è solo una delle varie tecnologie additive. Abbiamo anche ormai da quasi un ventennio tutte le tecnologie che utilizzano polveri, che vengono incollate, solidificate o fuse attraverso esposizione a raggi laser o attraverso la disposizione di collanti selettivamente per ottenere appunto l'oggetto tridimensionale. Ci sono anche tecniche a laminazione che stratificano materiali semplici come carta o cellulosa, venivano utilizzate all'inizio degli anni 90 per costruire oggetti di grandi dimensioni E poi la tecnologia di fusione di filamento caldo, normalmente in plastica, che adesso sta conoscendo una grande popolarità dovuta all'alta semplicità e al basso costo di produzione di queste macchine. Sì, diciamo che oggi spesso quando si parla di stampa 3D si fa riferimento a macchine che sono, giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori, possono essere 40x40, 50x100, sono dei cubi. Poi ci sono anche delle macchine molto più grandi, naturalmente, che hanno proprio una testina, immaginate una stampante alle quali siamo abituati per stampare un foglio, una testina che si muove, ma invece di spruzzare inchiostro, spruzza un materiale tipicamente plastico che viene fuso e passaggio dopo passaggio si crea un pezzo vero e proprio. Cioè possiamo produrre qualsiasi cosa, che ne so, anche il mouse che ho qui davanti, il microfono, il qualsiasi cosa, giusto? Esatto. Allora, i vantaggi principali di quasi tutte le tecniche additive. Poi ce ne sono delle altre, adesso non facciamo l'elenco di tutto. Sì, e poi ci sono anche molte tecnologie allo stato sperimentale o diciamo per applicazioni accademiche, però di quelle note, di quelle che hanno già un'applicazione industriale o per così dire privata, sono le cinque che ho citato poco fa. I vantaggi principali di qualsiasi tecnica additiva è l'assoluta libertà della forma da ottenere, quindi non abbiamo vincoli di complessità nella maggior parte dei casi. Soprattutto per la stereolitografia si riescono a materializzare oggetti che se fossero costruiti con tecniche convenzionali richiederebbero dei passaggi molto complessi o delle attrezzature molto complicate e costose e quindi darebbero diciamo dei tempi poi totali di preparazione estremamente lunghi, anche di mesi. La stampa 3D ha questa facoltà di poter materializzare un oggetto di qualsiasi complessità nell'arco di poche ore avendo la macchina, naturalmente, avendo la macchina. Quindi tu mi dici che nel mondo tradizionale io dovrei avere uno stampo per farci tutta una serie di cose, oppure macchine che tagliano pezzi in un certo modo, esatto. Però dei vincoli dovuti proprio alla costruzione di queste macchine. Perfettamente. Ecco, quindi il vantaggio principale diciamo tutti, adesso noi la chiamiamo stampa 3D per farci capire, o comunque delle tecnologie additive, è, tu dicevi, libertà, anche velocità nella produzione. Sicuramente anche velocità, se teniamo comunque conto del processo completo. Attualmente qualsiasi tecnica additiva difficilmente può competere per esempio con lo stampaggio industriale, in quanto sono sistemi che riescono comunque a produrre oggetti nell'arco di qualche secondo. Anche la macchina più veloce additiva comunque richiede qualche ora per completare l'oggetto, poi dipende molto dalla dimensione, dalla qualità che si deve ottenere. Quello che vince, che fa vincere la produzione additiva, sono la sequenza delle fasi che può essere svolta nell'arco di appunto più o meno del tempo totale di esecuzione dell'oggetto. Abbiamo solo bisogno di un contenuto digitale, quindi di questo file 3D che rappresenta morfologicamente l'oggetto. Quindi tu dici, dal momento in cui io progetto il mio prodotto al momento in cui lo realizzo, la stampa 3D vince. Esatto. Se lo devo fare in tecnica tradizionali, progettare, fare le macchine, creare le attrezzature, collaudarle, possono essere dei flussi industriali che richiedono settimane o anche mesi. Probabilmente se devo produrre milioni di pezzi vince ancora la stampa, però poi vediamo dove viene utilizzata la vostra tecnologia. Giusto per completare il quadro, una macchina come la vostra, come è fatta? Cioè quali sono i pezzi fondamentali per poi arrivare a depositare, o meglio a solidificare, questo liquido che poi crea il pezzo vero e proprio? Allora, semplificando molto il processo, certo. Abbiamo innanzitutto il motore della macchina, che è la sorgente laser che noi produciamo e progettiamo internamente. E poi abbiamo un contenitore, una vasca trasparente che ospita il materiale. Il materiale è liquido o può essere anche altamente denso, e questo materiale quando viene esposto alla luce del raggio laser si solidifica immediatamente. Quindi il nostro laser esegue delle scansioni ad altissima velocità, descrive sostanzialmente l'oggetto tagliato in ipotetici strati orizzontali e ad alta velocità lo ricostruisce solidificando il materiale. Quindi facciamo un esempio, se io voglio fare un pezzo di un tubo, questo laser solidificherà in modo circolare, esatto, il materiale. Con tanti passaggi io alla fine, dopo qualche ora, ho il pezzo di tubo, insomma. Vediamo l'oggetto che è letteralmente generato, quindi sì, è un processo, sì, generativo, nell'area di lavoro della, sì, macchina. Voi a chi vendete? Cioè chi le usa le vostre macchine? Noi abbiamo un approccio abbastanza insolito. Noi siamo partiti già molti anni fa con dei mercati selezionati, con delle applicazioni selezionati. Abbiamo aggredito per prima tutta la parte della gioielleria e dei beni di lusso, quindi abbiamo identificato questo settore industriale come ideale per poter produrre oggetti molto complessi. Cioè, fammi un esempio, nella gioielleria che cosa viene prodotto con una macchina tipo la vostra? Allo stato attuale possiamo produrre tutti i modelli in cera. Sono dei modelli sacrificali che poi vengono trasformati in metallo prezioso attraverso processi poi industriali di microfusione a cera persa. Questi sono forse l'80% delle tecniche di produzione di gioielli, ma possiamo anche produrre gioielli finali con dei nuovi materiali che abbiamo sviluppato noi in esclusiva e li abbiamo anche brevettati a livello mondiale, che noi chiamiamo pietra digitale. Abbiamo ricostruito alcune pietre dure, tra cui il corallo, l'avorio, l'onice, e questi materiali sono in forma liquida, quindi riusciamo a materializzare questo gioiello con questi materiali preziosi, con colorazioni a piacere, che possiamo sviluppare anche su richiesta, e quindi direttamente l'oggetto da indossare, che è anche biocompatibile. Tu mi hai detto prima che in questo settore, poi immagino insomma ci siano altri settori a cui vendete i vostri prodotti, una delle applicazioni è quella della creazione di un prototipo, perché immagino, ma chiedo conferma, che almeno in questa prima fase di questa nuova era, cioè chi la chiama la terza, la quarta, la quinta rivoluzione industriale, quella della stampa 3D, in questa era la prototipazione sia una delle cose più, insomma, che si adattano meglio alla quale si adattano meglio le stampanti 3D, cioè spiegaci un po'. Corretto, allora la prototipazione rapida è stata la prima, diciamo, aspettativa da soddisfare dall'inizio degli anni 90 e serviva per accelerare il processo di sviluppo di un nuovo prodotto, quindi di ottenere rapidamente una specie di copia di quello che era poi l'oggetto finale da portare in produzione con tecniche convenzionali. E questo è servito per la maggior parte dei prodotti industriali complessi, autoveicoli, prodotti di elettronica, di consumo e quant'altro. Ecco, negli ultimi anni si sono fatti dei grandi sforzi per portare questa tecnologia a uno stato tale da poter produrre direttamente tutto quello che serve. Quindi abbiamo lavorato molto sulla produttività, sulla velocità, sull'ingegnerizzazione dei materiali per poter produrre oggetti già per essere utilizzati. Che si possono già provare. Che si possono già provare. Tutto ciò lo si fa col software. Lo si fa con il software. Cioè così come io scrivo su Word, diciamo così, un testo, poi faccio stampa e lui me lo stampa su un foglio, stessa cosa funziona per la stampa 3D, più insomma. Ecco, con le dovute differenze di complicazione, no? Questo è un passaggio tutt'altro che banale. Tra l'altro era uno dei primi ostacoli che abbiamo trovato all'inizio degli anni 90, perché progettare un oggetto con un software tridimensionale era un'operazione molto complessa, richiedeva software molto costosi e molti mesi di addestramento. Quindi era il primo ostacolo alla diffusione di questi prodotti. Adesso abbiamo addirittura software disponibili su cellulari o su palmari, gratuiti, addirittura che ci permettono di modellare con dei semplici gesti con le dita degli oggetti di una complessità abbastanza interessante, e questo è un forte, se vogliamo, aiuto alla diffusione delle tecniche di produzione additiva. Il software è sempre, come dire, la sorgente poi di quello che si deve produrre, e rappresenta un po', diciamo, la parte forse più importante dell'ecosistema che ruota attorno alla stampa. E tu mi vuoi dire che se io ho un software di questo genere, alcuni software li fate anche voi direttamente, io posso progettare il mio oggetto, che ne so, un gioiello oppure anche una cosa molto semplice, che uno strumento che uso in cucina, e do l'invio e lo posso stampare. Esatto. Posso stampare anche a distanza, quindi. Sì. Se io sono un progettista, vivo su un'isola sperduta, e posso inviare la stampa a... Anzi, forse questa è una delle... degli scenari futuri? Sì, questo è uno degli aspetti più, se vogliamo, intriganti della questione legata alla produzione additiva. La possibilità di far viaggiare i contenuti tridimensionali, quindi dei file, attraverso internet, attraverso posta elettronica o quant'altro, anziché muovere gli oggetti, muoviamo dei file. Quindi questo è questa è un'arma potentissima per poter, per esempio, produrre in maniera delocalizzata, senza andare incontro a costi di distribuzione o a problematiche relative alla logistica, ed è forse uno degli aspetti più strategici per il prossimo decennio. Quanto pesa un file? Adesso, chiaramente, se progetto un'automobile è un conto, se progetto un piatto un po' diverso. Però... Ecco, questo è direttamente proporzionale alla complessità geometrica dell'oggetto. Però stiamo parlando di cose che pesano gigabyte. Possono anche pesare gigabyte. Sì. E quindi questo pone la questione della banda larga assolutamente in posizione centrale. Sì. E nell'ottica di un'implementazione della produzione additiva, in futuro sarà fondamentale avere banda larga, autostrade informatiche pronte, sì, ad accettare il transito di questo volume di dati. Esatto. Tu pensi, a proposito di scenari e applicazioni che vedremo nei prossimi anni, che ancora per molti anni, probabilmente per sempre, i prodotti che devono essere realizzati in grandissima scala, quindi milioni di pezzi, continueranno a essere prodotti in maniera tradizionale, quindi quello non è il campo di applicazione della stampa 3D, o addirittura potremo, che ne so, fra qualche anno avere stampanti 3D così diffuse che non ci saranno più i magazzini, ma quando ho bisogno di un pezzo lo stampo? Ma io credo che la produzione real time, se così la possiamo definire, sia già una realtà. Chiaro che dipende dalla dimensione dell'oggetto, dalla complessità dell'oggetto, da molti fattori, però noi già l'abbiamo implementato su alcuni settori industriali, tra cui la gioielleria, tra cui per esempio il settore dentale, che è un altro settore che noi seguiamo da vicino, e abbiamo macchine che sono già in grado di produrre qualche migliaio di oggetti al giorno per ogni singola macchina, quindi noi siamo già in grado di supportare una produzione di grandi volumi di oggetti. A quindi, chilometro zero, come si direbbe. A chilometro certo. Zero, esatto. O comunque a chilometro molto, sì, ridotto. Diciamo, giusto per avere un'idea, cioè di queste macchine quante ce ne sono già nel mondo, almeno delle vostre? Poi delle nostre ce ne sono già quasi un migliaio installate in 60 paesi. Noi esportiamo circa il 93% di quello che produciamo. E abbiamo macchine installate dal Nord America all'Asia, all'Australia, al Quindi Medio Oriente. In questo caso l'odonto tecnico non deve più farsi arrivare il pezzo magari da migliaia di chilometri, ma può farlo sulla base di un progetto che il dentista magari invia Esatto, può essere prodotto l'oggetto o la protesi dentale, in questo caso a distanza, e quindi avere dei risparmi molto importanti sia in termini di tempo che in termini poi di logistica, di magazzino, insomma di vantaggi. Quali altri sono i settori che secondo voi già oggi o nei prossimi anni saranno interessati dalla produzione di questo genere? Beh, ci sono scenari veramente, non posso dire infiniti, però veramente numerosi. Noi per scelta e anche per questioni di affinità tecnologica di solito siamo competitivi dove ci sono oggetti di grande complessità o di grande precisione. Tra l'altro abbiamo il vantaggio che ci dà la tecnica di stereolitografia di poter disporre di molti materiali. Noi abbiamo già 35 materiali sviluppati da noi che ci permettono di aggredire molte applicazioni che vanno, non so, da tutte le materie plastiche a materiali biocompatibili. Ma tipo che settori e o prodotti possiamo già oggi vedere o potremo vedere? Allora, quello che possiamo già vedere oggi sono tutta una serie di sostituti della plastica, quindi prodotti su elettronica di consumo, su design industriale. Possiamo anche produrre oggetti, per esempio materiali biocompatibili, come dicevo prima, protesi dentali. Stiamo lavorando su un progetto molto interessante per la produzione di un sostituto dell'osso per poter eseguire delle operazioni con un processo accelerato di guarigione. Quindi questo è uno scenario, questo è interessante. Un ospedale potrebbe avere la stampante, esatto, 3D, se la chiamo, sì, così, insomma, sì. E fare il pezzo adeguato al paziente. Esatto, sì. In questo caso parliamo di un sostituto osseo, quindi non di una, che so, ingegneria di tessuti oppure applicazioni molto più complesse che forse un giorno potranno vedere la luce. Senti, tornando a quello che dicevamo all'inizio, noi ci siamo incontrati al Consumer Electronics Show. E fino adesso però abbiamo parlato di applicazioni industriali o professionali, insomma di livello piuttosto complesso. Cosa c'entrate voi col mondo consumer, visto che in effetti negli ultimi mesi, ma direi insomma negli ultimi anni, di stampa 3D si parla sempre in riferimento a macchine che cominciano a diventare molto popolari, che costano poco. È vero che le macchine che costano poco poi in realtà producono degli oggetti che sono poco precisi, poco belli, che magari vanno poi lavorati, vanno sistemati, eccetera. Però è un dato di fatto che questo è un tema che sta diventando sempre più popolare. Voi che cosa c'entrate? Allora, abbiamo ripreso un vecchio progetto che avevamo nel cassetto già da molto tempo. Io ho avuto la fortuna di partecipare ad un progetto imprenditoriale nel 94 in Giappone, in cui abbiamo portato nel mercato, abbiamo introdotto la prima stampante 3D personale. Quindi a quel tempo il tentativo era quello di portare una macchina che avesse delle caratteristiche interessanti di, diciamo, di velocità e di flessibilità e che fosse abbastanza economica da poter essere acquistata da qualunque individuo. Purtroppo nel 94 i tempi erano ancora abbastanza prematuri, perché l'ecosistema, quindi il software per esempio, la banda larga, che esatto, oggi la banda larga non c'è quella che noi desidereremmo, sì, ci fosse, sì, o ci dovrebbe, sì, essere in un paese un po' più normale del no. però comunque c'è, insomma, un po' di, insomma, la rete esiste, non quella di 10 anni fa sicuramente, di 20 anni fa era un po' diversa. 20 anni fa era diversa, soprattutto i software erano sicuramente molto difficili, che in qualche modo fecero un po', diciamo, di ostruzione alla diffusione di questa tecnologia. Ecco, osservando il fenomeno di queste piccole macchine per uso consumer che stanno un po', diciamo, spopolando nel settore, abbiamo pensato l'anno scorso di riprendere questo progetto che avevamo tenuto nel cassetto e di riproporre con una chiave sicuramente, diciamo, di innovazione e di miglioria questa macchina consumer, quindi con un prezzo, diciamo, basso per poter essere acquistato anche dall'individuo o dal singolo professionista, una macchina però che sia in grado di soddisfare pienamente i requisiti che ci risulta in una certa misura risultano ancora abbastanza insoddisfatti in termini di qualità, in termini di precisione e di varietà di materiali. Quindi a Las Vegas abbiamo presentato X-Fab, che è una macchina stereolitografica che ha una qualità molto simile alle macchine professionali. Sì, sì, i pezzi che risultano sono magnifici. Grazie. Perfetto. Insomma, vedevo tutti gli americani che... Sì, ha riscosso un certo successo. Sì, sì, ricordo, sì, il nostro sito specializzato su questa tecnologia registrò quasi 39.000 accessi al giorno durante il CES. Quindi sì, è un argomento molto molto... Sì, diciamo, dibattuto. Il CES, lo ricordiamo, è il Consumer Electronics, esatto, Show, sì, che è il, insomma, questa fiera di cui abbiamo parlato anche 2024, però ti devo far dire il prezzo, perché poi molti pensano che costi poche centinaia di euro, non siamo ancora arrivati a queste cifre, perché stiamo parlando di una tecnologia che è solo agli inizi della, sì, propria esplosione. Sì. Noi abbiamo dei vincoli in gran parte di ordine quantitativo, che non ci permettono di produrre macchine a costi, diciamo, molto bassi. Quindi, quante ne potete fare in un giorno, settimana? Beh, no, al momento noi produciamo 250 macchine professionali all'anno. Quindi sono ancora poche. Con il progetto X-Fab saranno sicuramente qualche migliaio, sì, almeno dalle proiezioni che abbiamo. E infatti ci stiamo trasferendo su una nuova sede per poter soddisfare questa richiesta. La macchina sarà venduta a 5.000 euro e rappresenta un po' una fascia, se vogliamo, prosumer piuttosto che consumer, quindi certo, diciamo un consumo di lusso, no? Però un piccolo professionista, però, che ha bisogno di fare un prototipo, esatto, eccetera eccetera, ma è già un prezzo, perché macchine, diciamo, ma alle quali abbiamo fatto riferimento prima, invece costano alcune decine di migliaia di euro anche. Abbiamo visto, sì, le nostre macchine arrivano fino a 250.000 euro. Okay. È un range fra 10.000 euro e 250.000 euro. Comunque adesso io non sono espertissimo di industria, però se noi cominciamo a guardare i costi delle macchine industriali, stiamo parlando di macchine che possono tranquillamente costare centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro. Quindi, infatti, insomma, sì, andiamo su delle dimensioni che sono diverse. Sì. Ecco, noi pensiamo comunque che questo sia il primo step per noi nell'entrata del mondo consumer, anche se di lusso. Sicuramente nell'arco di quest'anno presenteremo anche una versione più piccola, che avrà un prezzo sicuramente più basso e si avvicinerà più a un concetto di consumer, per poi magari nell'arco di un paio d'anni poter eventualmente, grazie ai volumi. Sì. Questa fate tutto in Italia. Facciamo tutto. Mi raccomando, in non fate in Cina. Tutto a chilometro zero. Tutto X-Fab viene, tu hai detto, è già sul mercato o sarà? Perché hai usato il verbo al futuro. Sì, sarà a partire dall'estate, per il motivo che dobbiamo trasferirci sulla nuova sede per poter mettere in piedi la produzione di questa macchina. Negli Stati Uniti anche sarà dall'estate. Sì, questo vale per tutto il mondo. Sì. Senti, ti faccio una domanda su lo scenario industriale prossimo, futuro. So che in alcuni paesi stanno nascendo, non so se con una euforia esagerata, molti fab lab, si dice, cioè questi laboratori dove si usa anche la stampa 3D per fare prototipazione rapida, per sperimentare, eccetera, eccetera. Vedo che in Italia qualcuno sta facendo cose del genere. Pensi che sia un ottimo veicolo per diffondere questa tecnologia, per anche far avvicinare la piccola e media industria che magari potrebbe utilizzare questa tecnologia, ma forse non la conosce, ancora un po' scettica? Assolutamente sì, noi siamo molto vicini ai Fab Lab, stiamo dialogando con loro già ormai da parecchi mesi e sicuramente faremo del nostro meglio per supportarli con le nostre tecnologie. Ce ne sono già un numero sufficiente in Italia? Sì, in Italia questo fenomeno è già molto molto attivo, stanno anche già nascendo dei Fab Lab privati, quindi dei luoghi dove probabilmente a pagamento si può accedere a queste tecnologie. Interessante questo. Stiamo parlando di laboratori artigianali, sì, di fatto. Artigianali, sì. Con tecnologie moderne. Infatti, e questo secondo noi è un veicolo eccezionale per diffondere queste tecnologie. Non c'è solo la tecnologia additiva, non c'è solo il 3D printing. Nella Fab Lab ci sono anche macchine più tradizionali. Sì, e questo taglio al laser di un, esatto, pezzo di metallo, insomma, quindi molto, esatto, più tradizionale, certo. E questo è importantissimo comunque per poter, se posso azzardare il termine, risvegliare l'economia, la voglia di creare nuovi, sì, prodotti e di continuare, diciamo, questa tradizione che abbiamo in Italia di innovazione. Bene, io ringrazio Maurizio Costabebe per essere stato con noi, grazie anche per il lavoro di, chiamiamola, evangelizzazione, alfabetizzazione, che insomma è importante. Grazie e buon lavoro. È stato un piacere, grazie a voi. Adesso cambiamo argomento, parliamo di spazio. Alla fine della settimana, quindi venerdì, Ariane Space dal centro spaziale di Kourou in Guyana francese ha lanciato in orbita il primo di una serie di satelliti europei per l'osservazione della Terra. Con tecnologia italiana, tra le altre cose, si chiamano Sentinel. Questo primo satellite si chiama Sentinel 1A. I primi dati saranno disponibili tra qualche mese, ci sono come sempre le fasi di messa a punto del satellite, in qualche settimana, diciamo 3 mesi dovrebbero essere, secondo i tecnici dell'Agenzia Spaziale Europea, le fasi di messa a punto per il Sentinel-1A. Questa è una... un evento, è un progetto interessante, si chiama Copernicus, il progetto europeo, è un progetto interessante anche perché ci dà uno spunto per parlare nelle prossime settimane di alcuni servizi che possono essere realizzati da aziende private sulla Terra grazie alle immagini raccolte da questi satelliti. Naturalmente la cosa principale a cui servono questi satelliti è la ricerca scientifica, ma non solo, quindi nelle prossime settimane parleremo di alcuni servizi interessanti. Ci racconta tutto di questa serie di satelliti, del progetto Copernicus e dell'importanza di questo progetto Luigi Bignami. Sentinel è un satellite che innanzitutto porta a bordo con sé un radar per osservare la Terra, e questo gli permette di guardare il nostro pianeta sia di giorno che di notte e anche quando è coperto dalle nubi. Il radar infatti riesce a attraversare appunto qualsiasi copertura nuvolosa e vedere anche di notte, e riesce a vedere oggetti fino a 10 metri di dimensioni, per cui questo satellite è in grado di fare una mappa della Terra una volta ogni 6 giorni, quando sarà accompagnato da Sentinel-2, che sarà esattamente identico al primo che è stato lanciato. Attraverso queste immagini che i due satelliti riusciranno a prendere, noi potremo avere una precisa situazione di quella che è la superficie dei mari, per esempio. Potremo studiare, verificare e seguire nel tempo qual è la variazione dell'altezza delle onde e soprattutto qual è la variazione dell'altezza dei mari. Ma ha una importanza notevolissima quando ci sono, ad esempio, delle alluvioni, perché il radar immediatamente è in grado di vedere fin dove l'acqua è arrivata e quindi trasmettere a terra, se l'alluvione copre una grande area, qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte, cosa che invece diciamo si dovrebbe fare andando sul posto, oppure attendere immagini però soltanto di giorno e quando il tempo è bello. L'Italia, che ha costruito questo radar, anzi ha costruito la gran parte del satellite, perché siamo davvero primi nel mondo per l'utilizzo di questo tipo di radar, ha un ruolo fondamentale anche nella gestione, perché poi metterà e sta mettendo già a disposizione le grandi parabole per ricevere queste informazioni che verranno messe a disposizione di tutto il mondo. Gli altri satelliti che seguiranno, quindi dopo il 2, il 3, il 4, il 5, che fanno parte del progetto chiamato Copernicus, avranno un ruolo che andrà nello specifico. Altri satelliti, cioè, studieranno non solo le onde del mare, ma le interazioni con i ghiacci polari. Noi sappiamo come in questi anni i ghiacci del Polo Nord si stiano ritirando molto velocemente, ma lo studio del ritiro dei ghiacci non è importante soltanto per fini scientifici, ma si sta scoprendo sempre di più che quanto più i ghiacci polari si ritirano, tanto più, ad esempio, gli inverni sono freddi in certe aree del pianeta durante proprio la stagione invernale, e questo sembra un po' paradossale, però è così, e quindi bisogna studiare con grande precisione quelli che sono gli andamenti dei ghiacciai, cosa che faranno questi altri satelliti, oltre per esempio allo studio delle aree che sono soggette alla deforestazione, oppure lo studio delle aree agricole per capire se stanno, diciamo, trasformandosi a causa di siccità, che sempre di più nel mondo stanno colpendo. Per esempio quello che è successo nel 2013 è stato molto drammatico sia negli Stati Uniti che in Australia. Quindi sono dei, come dice la parola, delle sentinelle del cielo che ci daranno una mano per almeno i prossimi 10 anni sullo studio e il controllo del nostro pianeta. Prima di chiudere, come sempre, un'occhiata ai contenuti che troveremo domani su Nova, il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione guidato da Luca De Biase. Luca, bentornato 2024. Eccoci, ciao. Allora, partiamo come sempre dalla copertina. Domani che cosa troveremo in copertina di Nova? Ma una delle cose che proprio non si mandano giù è che il sistema del turismo italiano, così importante per il paese, sia dal punto di vista della digitalizzazione, guidato da piattaforme americane che hanno tutto il merito di funzionare molto bene, ma di prendersi anche il 30% del valore aggiunto delle stanze, di quello che si vende. E quello che è interessante è che non è finita la storia, insomma, si possono fare altre cose. Il pezzo di Alessia Maccaferri racconta di come, utilizzando i big data e lavorandoci sopra in modo intelligente, si potrebbe rovesciare un po' il ragionamento. Prima di tutto, tutti questi dati sono utilizzabili e non è necessariamente detto che debbano essere altri a farlo. Ogni giorno, per esempio, Expedia analizza 3 miliardi di ricerche di voli. Questo è una roba che ti fa capire che genere di cose siano i big data. Ma contemporaneamente in Italia solo le persone che si muovono con il telefonino, che vengono da fuori, che hanno lasciano tracce, sono certamente altrettanti grandi volumi di dati. Trattarli significa costruire delle politiche, capire che cosa, che effetto hanno queste azioni di marketing o di proposta o di offerta innovativa immediatamente quando sono proposte. Quindi cominciare a lavorare con un feedback immediato ti fa capire che cosa funziona, che cosa non funziona, come si può riorganizzare. E poi naturalmente tutti questi dati devono essere visualizzati, sintetizzati, lavorati dal punto di vista del riassunto delle informazioni testuali che vengono messe dai turisti online per comprendere meglio che cosa stanno facendo i turisti in Italia e come possono essere coccolati di più, serviti meglio e attirati. Sì. Per il momento vincono gli americani, però bisognerebbe provarci. Non c'è dubbio che dobbiamo provarci. Sì, esatto. Senti, altri argomenti che troviamo domani su Nova? Ma c'è una bella intervista di Minin alla commissaria che si occupa della ricerca. Come sai, adesso sta partendo Horizon 2020, un programma che finanzia la ricerca per 80 miliardi in 7 anni. È un grandissimo programma di finanziamento della ricerca che fa la Commissione europea. È chiaro che per una volta è non solo importante per i ricercatori ma per tutto il sistema, perché è stato concepito in modo tale da tenere conto dei risultati della ricerca per l'allocazione dei fondi. Che significa che ci sono molte importanti opportunità sia per i ricercatori sia per la filiera che nell'insieme lavora sull'innovazione. Senti, dimmi che cosa avete lanciato negli ultimi giorni, perché non c'è solo l'appuntamento settimanale, a questo punto bisettimanale, diciamo, con la carta, ma c'è anche un sito internet nuovo che è nova.isole24ore.com. Cosa c'è? Ti ringrazio di questa domanda, perché fondamentalmente ci consente di dire che quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi, cioè aumentare l'informazione di Nova senza aumentare le pagine, con la realtà aumentata, cioè con questa app che col telefonino ti consente di leggere il giornale e leggere articoli che sulla carta non ci stanno ma ci stanno nel telefonino e nel digitale. Questi articoli vagavano nell'aereo e adesso si sono raccolti magicamente in un sito di approfondimento che appunto è nova.sole24.com, nel quale si ritrovano contestualizzati, raccolti con i puntini uniti in qualche modo. Come dicono gli americani, connecting the dots. Esatto. Luca, grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Noi chiudiamo questa puntata di 2024, versione podcast del nostro programma. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato il file MP3 o ascoltato in streaming questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta in redazione. Ci risentiamo la prossima settimana. Ricordate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Vi consigliamo di usarlo quando la vostra domanda supera i 140 caratteri, ma soprattutto quando la risposta deve necessariamente essere un po' più lunga. Ci trovate comunque anche su Twitter e su Facebook. Appuntamento alla prossima puntata. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.